Io ho presi la tristezza per farne una corazza, mentre il dolore si bloccava giunto a metà strada. Ho visto fino a ieri la copia di me stessa, mi ossessionava la paura della debolezza. Ma la paura serve tanto quanto la rabbia, e ora guardo fuori e piove, l'acqua non ristagna, è il flusso delle auto, il tempo le accompagna, e le persone di il vociare sa di ninna nanna. Io sono qui a prendermi quel tempo che si addice a me. Sola, confusa, solitaria, rinchiusa in mille scuse, in mille accuse, rintanata, poi sono rinsavita, libera, un po' rinata, verso l'esterno e le persone ero direzionata. Ma ora guardo fuori l'autunno, i suoi colori, è ancora prematuro e giuro mi son spaventata. Ma cambiano le strade e cambiano le viole, e con il tempo muteranno anche le persone. Voglio cantare, saper camminare, conoscere il mondo, te stessa e il silenzio di questa città. Voglio sapere cosa hai da pensare per correre il rischio, lasciarmi stupire da quel che sarà. Io sono qui a me, e ti vorrei qui a prendermi con il rischio di conoscerti per sorreggermi, sconvolgermi, coinvolgermi, evolvermi, muovermi, conoscermi, conoscerti.